La polvere soffiava nella brezza della sera. Un leggero fetore si levava dal torrente. L'acqua era piena di cavallette annegate, in decomposizione. Non c'era più acqua pulita in tutto il paese. «Non volevo farvi preoccupare», disse Charles, «ma i cavalli non bevono acqua da ieri mattina. Sono stati 2 giorni senza acqua con questo caldo. Il torrente era pieno di cavallette quando sono uscito ieri». Dopo il tramonto lavorò a lungo, scavando una buca nella palude. Arrivò il signor Svensson portando una pala e un secchio e guidando i suoi buoi. Lavorarono insieme, scavando, e quando la buca fu abbastanza profonda dovettero aspettare che l'acqua vi penetrasse. A mezzanotte, finalmente, i cavalli e i buoi bevvero, e il signor Svensson si avviò verso casa con il secchio pieno d'acqua. Caroline era sveglia quando entrò Charles, sporco di fango e allegro. Si alzò a sedere impaziente di bere dall'annaffiatoio colmo che lui le diede. «Grazie a Dio i cavalli stanno bene», disse. «Troverò sicuramente un lavoro con le squadre della ferrovia». Era inutile cercare di scavare un pozzo finché le cavallette strisciavano. «Niente le ha fermate», disse a Caroline mentre si toglieva gli stivali. «Qualunque cosa trovassero, continuavano ad andare avanti, strisciavano su un lato del fienile e giù per l'altro, strisciavano verso ovest, strisciavano dritte nel torrente senza mai fermarsi, ci strisciarono dentro e annegarono finché non lo hanno intasato, e le altre lo hanno attraversato strisciando sulla schiena di quelle morte». Caroline esitò. «Vorrei che l'avessi visto. Una cosa del genere. Avevano un'idea o avrebbero fatto una cosa del genere senza sapere perché. Ti dico che erano destinate ad andare a ovest. Tutte le forze dell'inferno non avrebbero potuto fermarle». Lui e Caroline si guardarono per un lungo momento e lei chiese: «Non pensi che...» «Cosa?» chiese infine. Nessuno dei due riuscì a dire cosa provava. Le cavallette che strisciavano nel torrente annegavano finché le altre non le attraversavano sulla schiena. Le cavallette che andavano verso ovest, come le ferrovie, come la gente, come le città e le terre colonizzate, come la legge e il governo stesso. Eppure le cavallette erano estranee, indifferenti alla sofferenza umana, come il vento o il freddo. Forse non erano più indifferenti agli esseri umani dello stesso destino umano. «Beh, è un bene che i cavalli si siano salvati», disse Caroline. «Ora è meglio andare a dormire se ti alzi presto». Il mattino seguente Charles partì prima che facesse giorno. Il campo ferroviario più vicino era a 20 miglia di distanza e disse allegramente che non avrebbe perso tempo a raggiungerlo. «Se avrò un lavoro», disse, «cioè se il caposquadra mi metterà subito al lavoro, resterò con lui. Cercherò di trovare un cavaliere che venga da questa parte e ti manderò un messaggio, ma non preoccuparti se non torno a casa domani sera». «No», rispose lei. «Svensson si prenderà cura di te, mi ha detto che ne sarebbe stato felice». «Sì», rispose lei. La tenne stretta per un minuto accanto alla ruota del carro, alla luce della lanterna, poi la baciò. Lei sollevò il bambino e Charles lo solleticò con un gorgoglio. «Fai il bravo, piccolo, prenditi cura di tua madre». Salì sul sedile del carro, prese le redini e partì. Di lì a poco sentì un fischio sempre più flebile attraverso la prateria buia. Sapeva che lui fischiettava per rallegrarla. Alla luce del giorno vide più chiaramente il paese devastato. Non c'era altro che terra nuda fino all'orlo del cielo, terra e una piccola lettiera di vecchi steli d'erba morti. Le cavallette non avevano mangiato le cataste di fieno di maggese rimaste dall'anno scorso. L'oro e il fienile si stagliavano imponenti sopra le loro ombre nella prateria senza ombre. Tutta la terra nuda era bucherellata dai piccoli fori dove le cavallette avevano lasciato le loro uova. L'anno prossimo le cavallette sarebbero state cattive, ma i raccolti potevano sopravvivere, Charles glielo aveva detto. Andò a prendere l'acqua dal buco nella palude per fare il bagno al bambino e per lavare i vestiti di lui e di lei. Niente avrebbe tolto le macchie marroni lasciate dalle cavallette. L'acqua fangosa doveva rapprendersi prima che lei la bevesse, era tiepida. Avrebbe voluto prepararsi un tè caldo, ma c'erano così poche foglie di tè. La puzza del ruscello si fece più forte con il caldo. La polvere soffiava sulla prateria senza erba e tutto ciò che toccava era sporco di polvere. L'erba della palude era sparita, come il resto, e quando al tramonto portò il bambino nella prateria per sfuggire all'odore del torrente, vide un po' di stoppia paglierina nel campo di grano, tra le macchie annerite dove erano bruciati gli steli. Le piantine di cotone erano morte, naturalmente. Erano teneri rameti e foglie e le cavallette le avevano mangiate. Non sapeva quanto fosse ansiosa finché la tensione non si attenuò la seconda notte. Charles non tornò. Si disse che era sicura che avrebbe trovato un lavoro. Ora potevano pagare qualcosa sui debiti e comprare le provviste per il prossimo inverno e le sementi per l'anno successivo. Gli sarebbe servita la falciatrice e un giorno avrebbero sicuramente usato il legname e le finestre. Solo la seta marrone era stata un grave errore, ma non poteva rimpiangere che Charles l'avesse comprata per lei. Quella sera tardi, Charles non era venuto ancora e lei si addormentò con un grande senso di sicurezza. Al mattino si sentì riposata e forte. I giorni trascorsi dall'arrivo delle cavallette erano stati un delirio e ora erano passati. Anche la puzza del torrente sarebbe sparita col tempo e l'erba sarebbe ricresciuta in primavera. Si disse che la perdita del grano non era stata una vera perdita, non avevano mai raccolto il grano, non avevano mai avuto la casa nuova, la pompa, i due lavatoi e la squadra di guida e il calesse. Nessuna di queste cose era stata reale. Eppure, quando lottava con il coperchio rotto della vecchia stufa, si sentiva defraudata della sua nuova stufa. E intingendo l'acqua dal buco nella palude e portandola per tutta la lunga strada attraverso la prateria e il sentiero, si ribellò alla perdita della sua pompa. Avrebbe potuto piangere per la sottile sottoveste a pezzi del bambino, per le morbide e dolci flanelle nuove, per i vestiti ornati di pizzo che gli erano stati portati via, e il pensiero della mucca era una pugnalata di veleno. «Beh, Charles ha un lavoro», si disse, «e l'anno prossimo avremo una mucca». Non doveva temere, il piccolo Charles John avrebbe avuto il suo latte. «Sì, lo farà, figlio mio», gli canticchiò, contenta perché il suo piccolo pugno vagante strattonava bruscamente i suoi capelli lisci. Ma il senso di rabbia per l'ingiustizia del destino si riaffacciò. Odiava la piroga, quel buco nel terreno, come aveva detto Charles. Odiava la stufa rotta, il caldo, la prateria spoglia e brutta. Odiava il vento che le faceva saltare i nervi e ricopriva tutto di polvere. Tutta la sua vita le sembrava povera e meschina. Con ferocia, con amarezza, compiangeva il suo bambino defraudato, compiangeva Charles derubato, ferito, costretto a lavorare per altri uomini. La sua solitudine si ribellava alla crudeltà che glielo aveva portato via. Non meritavano questa sofferenza. Si erano fidati ed erano stati traditi. Il suo grido era «Non è giusto! Non è giusto!» Adagiò il bambino addormentato sul pavimento e sbarrò l'ingresso con la panca. Prendendo la zappa e un cesto di canne, attraversò il vento caldo e polveroso fino al campo dove Charles aveva piantato le patate nella zolla di terra appena rotta. Le cime delle patate erano sparite, ma una parte del raccolto era rimasta sepolta nella terra arida. Scavò con cura e setacciò attentamente la terra con le dita in modo da non perdere la più piccola patata. Anche gli Svensson stavano scavando le patate. Ombre in movimento conducevano lo sguardo alle loro figure color terra che arrancavano e si chinavano in una nebbia di polvere. Il cielo era color rame, non più infinitamente vibrante, sembrava vibrare ai colpi del calore del sole. Nel tardo pomeriggio, Caroline andò a prendere l'acqua dalla palude e si lavò stancamente. Diede da mangiare al bambino, lo vestì con la sua povera camiciola, la sottoveste e il vestito di calicò sbiadito, e portandolo sulla spalla si incamminò verso gli Svensson. Sentiva che parlare con la sua amica avrebbe alleviato la sua amarezza. Nella baracca soffocante la signora Svensson, con gesti e parole stentate, descrisse con entusiasmo la loro lotta contro le cavallette. Raccontò come le api si erano riversate dalle loro arnie per attaccare le orde striscianti. Si lamentava dell'orto, ma erano rimaste alcune rape e carote e le patate. I suoi occhi stretti scintillavano e i denti brillavano sul suo viso sporco. Non poteva lavarsi. Nel secchio era rimasta solo un po' d'acqua e non ce ne sarebbe stata altra finché il signor Svensson non l'avesse tirata fuori dal buco nella palude. «Is no good, is male, male!» accarezzò la mano di Caroline. Caroline pensava che gli Svensson non avessero perso molto. Avevano le loro patate a zolle, le rape e le carote e le loro api. Non avrebbero avuto molto di più se non fossero arrivate le cavallette. Ed erano insieme, non si erano separati, non erano in debito. Il senso di Caroline per la propria perdita non divenne meno amaro. Raccontò che Charles con le sue stesse mani aveva sradicato e bruciato il grano, cercando disperatamente di salvarne solo un po', ma non c'era più nulla, non era rimasto nulla. E si ritrovò a coltivare la grandezza della loro perdita come se la perdita stessa fosse un possesso. La sua lingua, come se volesse, si soffermò su ogni dettaglio della loro miseria, sembrava vantarsi di ciò che avevano perso. Caroline non riusciva a fermarsi, non capiva lei stessa il suo comportamento. La sua amarezza era come un veleno, come una febbre che si era impossessata di lei. Improvvisamente era stanca, esausta, voleva Charles, niente era giusto senza di lui. Quando lui non c'era più, rimaneva solo una parte di sé e il desiderio di lui era più forte di quanto potesse sopportare. Le lacrime le affiorarono agli occhi, girò la testa e le strizzò via. La mano della signora Svensson prese la sua e Caroline vi si aggrappò. Quando il signor Svensson fermò il carro di buoi vicino alla porta, Caroline diede alla sua amica il bambino da tenere in braccio mentre lei saliva sul carro. Si spinsero l'una verso l'altra e per la prima volta si baciarono. Sì, disse la signora Svensson annuendo con la testa lucida. Tu fai com? Io faccio com? Veh, così parliamo. I buoi trainavano il carro lentamente attraverso la prateria. Dietro il sedile, il secchio e la tinozza vuoti tintinnavano insieme. Il signor Svensson scosse la testa, sospirando profondamente. Senza i suoi buoi non avrebbe avuto nulla. Sarebbe stato impotente, non sapeva come avrebbe potuto nutrirli. Non c'era fieno selvatico. Il tramonto non era mai stato così splendido. Grandi strisce di cremisi, rose e arancione si dispiegavano lungo lo zenith. I loro riflessi coloravano l'aria e la terra e l'acqua putrida del torrente brillava come un gioiello. Caroline pensò a Charles, lontano. Cercò di non pensare a tutti i giorni vuoti che avrebbe dovuto sopportare fino all'inverno quando lui sarebbe potuto tornare a casa. Arrivò 5 notti dopo. Caroline stava allattando il bambino quando sentì il carro. La sua bocca perse il seno e il bimbo si lamentò con rabbia. Lo adagiò sulla cuccetta e uscì ad ascoltare. Era il carro di Charles che si era fermato nel fienile. Il bambino strillava mentre lei accendeva la lanterna. Lo lasciò che ululava di rabbia. C'era una falce di luna e quando la sua testa si alzò sopra la riva del torrente, vide le forme scure del carro e dei cavalli che si afflosciavano e Charles ingobbito sul sedile. La luce della lanterna mostrava la polvere spessa nella cavità degli occhi e nelle linee intorno alla bocca. Mostrava le infinite miglia che aveva percorso quel giorno nella polvere e nel caldo, solo e sconfitto. Lo sballottamento del carro aveva martellato per tutto il giorno la mente e il corpo. Il cielo e la prateria si erano fatti beffe di lui. Eccomi qui, disse amaramente. Devi essere stanco morto. La sua voce lo accarezzò. Ti aiuto a sganciare. Non riesco a trovare un lavoro. Lo aveva capito quando aveva sentito il carro. Disse: Bene, non importa, sei arrivato. Si abbassò rigidamente sulla ruota. La polvere scivolò fuori dalle pieghe della manica quando lei gli posò una mano sul braccio. Lei alzò il viso. Lui la baciò brevemente e si voltò per slacciare le tracce. Caroline sapeva cosa provava. Un uomo non aveva diritto a una moglie di cui non poteva prendersi cura. Era spaventata, non sapeva come raggiungere la sua anima. Non le importava nient'altro, se solo lei e Charles fossero rimasti vicini. Lui era lì, l'aveva baciata, ma non era tornato da lei. Fece un cappio a una corda impolverata e lo infilò alla cieca nell'anello del collare del cavallo. Le mani le tremavano, tremava tutta, era persa, era sola. Tu corri? Charles disse bruscamente. Credo di non essere così distrutto da non riuscire a disarcionare la mia stessa squadra. Era sull'orlo del collasso. Va bene, disse rapidamente. Vado a mettere la teiera. Charles Cercò di non sentirsi così terrorizzata, così abbandonata. C'era del pane nuovo per la cena, ne aveva preparato una pagnotta proprio quel giorno, e le piccole patate avrebbero bollito rapidamente nella loro buccia. Era contenta di non aver usato le foglie di tè. Una tazza di tè forte avrebbe fatto sentire Charles meglio. Non si affrettò a sbrigare le faccende, c'era tempo per finire di allattare il bambino e per mettersi in ordine. Riempì il lavabo di acqua fresca e appese un asciugamano pulito. Il tè stava bollendo e le patate erano fumanti e asciutte quando lui entrò. La sua bocca e la sua mascella avevano un aspetto nuovo e duro e Caroline si sorprese a pensare che aveva solo 20 anni. Sembrava più vecchio che mai ed era strano che lei lo considerasse giovane. Non parlarono molto mentre lui mangiava, non disse nulla del bambino. Lei parlò del raccolto di patate, degli Svensson e gli riempì la tazza. Ogni parola e ogni piccolo suono erano forti ma impotenti di fronte a quel silenzio spaventoso. Per tutto il tempo lei gli gridava silenziosamente: «Charles, Charles, torna da me, non rimanere così lontano». Lui spinse indietro la tazza del tè, il piatto, e piegò le braccia sul bordo del tavolo. La sua bocca si indurì. Non c'è un lavoro in tutto il paese. Caroline non disse nulla. Sapeva che se ci fosse stato un lavoro, Charles lo avrebbe ottenuto. Era desolata perché lui non veniva da lei a cercare conforto. Non voleva il suo amore materno. «In tutti i campi stanno respingendo gli uomini», proseguì Charles. «Non sai com'è». Vide le sue mani marroni stringersi forte sulle braccia. «Tutti cercano lavoro. Metà della gente del cantiere della città si sta licenziando, sta andando via. Hanno smesso di costruire, stanno chiudendo i negozi. Nei campi della ferrovia stanno... Caroline, stanno chiedendo l'elemosina. Chiedono l'elemosina nelle baracche dei cuochi. Uomini con famiglie, bambini. Arrivano e devono chiedere l'elemosina. Perché non vivono di conigli, Jack?» Caroline chiese bruscamente. «Non ce ne sono. I conigli hanno lasciato il paese. Per tutta la strada est, 60 o qualcuno dice 100 miglia, le cavallette hanno preso tutto. Caroline, tu non capisci. Se avessi visto, c'era un uomo che mi parlava. Aveva una tenuta a sud di Lone Tree, aveva costruito una baracca di legno, aveva 3 figli nel vagone e sua moglie stava per averne un altro e i suoi cavalli non poteva dar loro da mangiare. Li avrebbe portati il più lontano possibile e quando non sarebbero più potuti andare oltre, cosa avrebbe potuto fare? Caroline, mentre mi parlava, è scoppiato a piangere». Lei si chiuse in se stessa. Non le importava altro che Charles. «Questo non ha niente a che fare con noi», disse. «Non chiederemo l'elemosina». «Oh, non è vero?» Le parole furono crudeli. Erano come un colpo. Spezzarono qualcosa. «Lascerò che tu e il bambino moriate di fame, vero? Sono 60 miglia, te lo dico io, o 100, 200, e poi Dio solo sa se troverò lavoro. Chiedere l'elemosina, certo che chiederei l'elemosina, di che cosa pensi che sia fatto?» Lei si era tranquillizzata e aveva detto a bassa voce: «No, Charles, non è poi così male, c'è il fieno per i cavalli, abbiamo le patate e quest'inverno potrai andare a caccia». «Rimanere qui, vuoi dire? Dovremmo avere la farina, il sale, e anche se... Oh mio Dio, e tu che allatti il bambino?» Colpì il tavolo con un pugno. «E non posso nemmeno cacciare, non ho polvere e pallini, e non ho credito». Caroline aveva afferrato la lampada. La fiamma spargeva fuligine sul vetro del camino. Charles si premette i pugni sulle tempie. «No, dobbiamo abbandonare la fattoria e andarcene, se possibile. Forse posso trovare lavoro se riusciamo ad andare abbastanza a est». «Rinunciare al... Oh, no!» «Sì, rinunciare alla tenuta». Lui si rivolse a lei selvaggiamente. Caroline sapeva che non diceva sul serio. Non era arrabbiato con lei. «E sarò fortunato se riuscirò a rubare. È quello che ho detto, rubare. A rubare i miei cavalli per andarmene. Oh, hai avuto un buon marito quando mi hai sposato». «Ma Charles, non è colpa mia?» «Sì che lo è. È colpa di quei maledetti debiti. Ti dico che sono finito. Ho provato di tutto, tutti i campi. Ho fatto fare 60 miglia e più ai cavalli, solo per caso. Tornando indietro, Loftus mi ha fermato al cantiere della città. Ha detto che dovevo pagarlo per quel legname. Ho cercato di convincerlo a riprenderselo, ma non ha voluto. Ha detto che se avessi cercato di andarmene senza pagare avrebbe attaccato la squadra e il carro. Ma non può! Carola gridò. Non può, perché impiccano i ladri di cavalli. È un omicidio lasciare un uomo a piedi. Oh, sì che può. E lo farà. Ora c'è la legge in città. E io. Mi ha dato del ladro e io non ho fatto nulla. Gli ho detto che gli avrei dato le pellicce in cambio quest'inverno e lui ha accettato. Poi sono andato da Anderson per prendere polvere e pallini e lui ha detto che gli dispiaceva. Gli dispiaceva. Io non stavo chiedendo alcuna carità, ma non mi ha dato un altro centesimo di credito. Non ho di che vivere. Tu e il piccolo per tutto l'inverno e niente sementi per l'anno prossimo. Caroline aveva paura di parlare e di fargli sentire il proprio respiro che si agitava nel silenzio. Se fosse crollato si sarebbe odiato, se il suo orgoglio fosse crollato del tutto non sarebbe rimasto nulla. Improvvisamente fu quasi felice perché capì, perché lui non era venuto da lei a chiedere conforto, era il suo orgoglio di prendersi cura di lei e del bambino. Lo avrebbe amato ugualmente se lui non avesse potuto prendersi cura di lei. Ma lei non lo avrebbe amato affatto senza quell'orgoglio. Lui non sarebbe stato Charles senza di esso. Per questo doveva salvarlo. Per questo aveva lottato per lui anche contro se stessa. Non doveva perdere il suo orgoglio. Era il loro bene più prezioso. Sapeva che non dovevano rinunciare alla fattoria. Per un istante desiderò di nuovo i giorni felici in cui avevano viaggiato insieme nel carro, spensierati e liberi. Ma ora tutto era cambiato. Allora erano giovani e andavano verso ovest. Solo un uomo sconfitto viaggia verso est, senza casa, con una moglie e un bambino piccolo. Per tutto il giorno il povero piccolo Charles John, accaldato, stanco e piagnucolante, sarebbe stato sballottato sul carro. Per tutto il viaggio Charles sapeva, e ogni uomo che incontrava sapeva, di non essere abbastanza forte per il west. «Perché non vai tu a est fino all'inverno?» disse. Non rinunciamo alla tenuta. Henderson e Loftus ci daranno tempo per i debiti se ci teniamo la tenuta. Come facciamo a fare un viaggio del genere e a tornare entro 5 mesi? Rispose lui cupo. Dovremmo viaggiare lentamente con il bambino e dobbiamo vivere. In ogni caso, appena ce ne andremo, qualcuno ci prenderà la fattoria. Un bel posto come questo, con tutta la terra già arata. Lui non aveva nemmeno pensato di andare a est senza di lei. Nessuno verrà qui finché ci sarò io, disse lei con fermezza. Lui capì allora. Alzò rapidamente lo sguardo, guardandola negli occhi. Caroline, non vorrai dire che. Ma certo, mi sento altrettanto sola quando non ci sei. Non importa dove sei, se lavori alla ferrovia o in Oriente. Non permise che la sua voce tremasse. Concluse frettolosamente. Starò bene. Gli Svensson sono qui. Mi aiuteranno. Arrivò rapidamente e la prese tra le braccia. Caroline, tesoro, mia povera cara, ti sono mancato così tanto. Sì, disse lei. Lui tremava e gli vennero le lacrime agli occhi, come se non avesse immaginato quanto le fosse mancato. No, non ti lascerò, disse. Non ti lascerò mai più. Resteremo uniti, qualunque cosa accada. È l'unica cosa che conta. Certo, disse lei. Ma sapeva che lui doveva andarsene. Si meravigliava che l'orgoglio di un uomo fosse così essenziale per lui da non poterlo abbandonare e accontentarsi dell'amore, ma era vero. Se l'orgoglio di Charles fosse stato ferito a morte, si sarebbero davvero persi per sempre, come lei aveva perso lui in tutte quelle misere ore. Quella sera si misero a parlare mentre il bambino dormiva tra loro. E lei riuscì a fargli capire che era molto semplice. Lui avrebbe lavorato all'est invece che in ferrovia. E questo era tutto.